io credo che molto semplicemente da questo punto di vista sia stato diciamo così commesso quantomeno, se non un errore, comunque sicuramente una disattenzione, perché è del tutto evidente che strutture come IKEA, giusto per fare nomi e cognomi di Casalecchio, una struttura come quella che, come abbiamo visto nel fine settimana scorso, richiama comunque assembramenti e tante persone che si dirigono in quel luogo, abbia le stesse caratteristiche fondamentalmente di un centro commerciale, e quindi se si chiudono giustamente i centri commerciali io credo si debbano chiudere anche strutture come quella, come IKEA o come altre strutture simili, insomma, sia per la tutela della salute pubblica, ma anche per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che in quei luoghi sono impiegati. Quindi, insomma, spesso e volentieri le misure tipo gli ingressi contingentati o la rilevazione della temperatura non sono sufficienti all'interno per evitare assembramenti. Sì, questo senza dubbio, anche perché il rischio è esattamente quello di incentivare alla fine la presenza in alcune strutture poiché le altre sono chiuse. Faccio un esempio banale ma credo efficace: nel momento in cui la Lombardia chiude i centri commerciali, parliamo di una decina di giorni fa, noi ci siamo trovati come Emilia Romagna nella condizione di dover affrontare le richieste che dal territorio piacentino ci arrivavano proprio per andare nella stessa direzione, perché la contingenza e la vicinanza territoriale tra Piacenza e la Lombardia ha fatto sì che in quei giorni in cui le strutture commerciali della Lombardia erano chiuse e quelle dell'Emilia Romagna e del Piacentino no, molti lombardi si riversassero poi nei centri commerciali del Piacentino, e quindi è evidente, questo per dire anche della necessità poi di misure più uniformi, perché poi i problemi si creano concretamente in questa dinamica, e infatti poi la regione Emilia Romagna ha proceduto a chiudere con un'ordinanza del Presidente anche i centri commerciali del Piacentino, anticipando in qualche misura le iniziative del governo. A tal proposito, tu insieme al tuo collega Federico Alessandro Amico avete presentato un'interrogazione, chiedete alla Giunta di includere, quindi di integrare il DPCM con la chiusura delle grandi superfici di vendita nei weekend. Sì, poiché come sappiamo comunque le regioni possono intanto proporre al governo ovviamente iniziative attraverso la conferenza delle regioni, ma anche adottare ordinanze proprie purché siano restrittive rispetto a quelle già ordinate dalle misure nazionali. Noi chiediamo che appunto la regione vada in questa direzione, perché non c'è ombra di dubbio che per chiudere, per curvare la curva del contagio è necessario introdurre ulteriori misure restrittive, chiudere quello che ancora oggi è rimasto aperto. Purtroppo è una fase molto complicata, molto difficile, sappiamo bene che ci sono attività economiche che stanno soffrendo e soffriranno molto, per cui è necessario, fondamentale, che i ristori arrivino e arrivino in modo puntuale e copioso, però è anche vero che la situazione dei contagi e anche i numeri di ricoveri in terapia intensiva, in ospedale, in terapia intensiva, non ci consentono più di poter pensare di andare avanti così. Purtroppo è una situazione che anche in Emilia Romagna è molto molto preoccupante, e siccome la salute non può che venire prima di qualunque altra cosa, noi dobbiamo intervenire. Ecco, proprio su questo il presidente Bonaccini ha annunciato che insomma in giornata dovrebbe adottare ulteriori misure. Vi state confrontando? Sì, ovviamente il confronto è quotidiano, costante, sia tra gli organi della regione che tra la regione e il governo. È chiaro che è una fase molto tumultuosa, molto complicata, e quindi insomma ogni misura in ogni caso deve essere assunta con grande attenzione, anche perché appunto c'è il tema della salute che va assolutamente messo in primo piano, però sappiamo bene che ci sono anche conseguenze economiche che non possono non essere affrontate in un discorso complessivo. Quindi la fase è molto complicata, sicuramente oggi comunque arriveranno misure ulteriori da parte della regione.